Metti. Chi è? Sara, mi senti? Chi sei? Chi sono? Sono sempre a Ah, dimmi, dimmi. Ah, dimmi, dimmi. Ma senti, Ma ancora che mi chiamate, perché mi stressate? perché venne a Paolonia in questo momento, capite di capire che è un questo muro. Va bene. Allora, guarda una cosa, se tu ancora continui, ti scrivo poi. Io non ho scritto niente, mi sono solo difesa che lei Sei sta solo facendo difeso, cose e io mi ma difendo. Sara, perché tu non sai chi sono, non sa quelli cristiani. E chi sei? Perché tu non sai quelli cristiani, capo, non capo, ti faccio attaccare, io faccio prima, ne capite, ti ho chiuso, ti hai rotto la macchina. Sì? Va Sì, ti ho bene. chiuso, ti hai rotto la macchina, e poi è venuto puro farda. Va bene. E Va quindi bene, cosa ora vuoi? Mi faccio. dovevi solo dire questo, insultarmi e minacciarmi? No, io non minaccio Tu mi nessuno, stai tu sei minacciando, che sana. mi impatichi su tutti i peli? Se ti chiude il buco del culo o il cunno, ti prenderà acqua fresca. Va bene, se quindi cosa vuoi? Solo questo mi dovevi dire? Cosa voglio, dice. Tu sei ancora messo in posto, sono Ancora ancora non avete forte. visto niente? No, ancora no, non hai visto niente tu, che tu ti pare che la gente è scema. Infatti, pure voi Ti vi pare che la sembra che la gente è gente è scema, che ti scema. pare che io, Sebastiano, ma che ti pare che ti vengono a Caolone tu così? Che io non ti sono pare che ti vengono a nessuno. Caolone? E se vengono a Caolone, ricorda che a me mi aprono i porti e vengono a casa e ti faccio i pruni e ti saltano in aria. Va Ora bene. mi scassassi tu, vedi che ora mi scassassi tu, cazzo, tu scrivi un altro posto, Padiglia. Io Cioè, mi tu difendo, che la gente pensa che non sono ti io, hai difendi, tu devi capito? vedere chi cazzo è il giorno che ti scrive, non devi rompere le palle, adesso stai Veramente siete voi scassando. che rompete le palle, scusami il E tutti i giorni, termine. tu non hai scritto posto. Io mi difendo e mi difenderò sempre, hai Tu ti difendi, capito? tu cazzo ti sparano con un buco culo, non ti difendi, che cazzo vai a scrivere un giorno? Io cosa Ma vado che a te ne frega scrivere? da La me? tua ragazza Ma fa che le te ne frega cose, da la me? tua Tu non ragazza. Allora, Sebastiano, prima cosa modera i termini. La tua ragazza fa le cose e poi te la prendi con me. Vieni tuo fratello, vieni. Mio fratello non viene da nessuna parte perché non spreca tempo per Fallo venire uno tuo come fratello, te. che è un grande uomo, fallo venire. Veramente, mio fratello lavora, non fa quello che fai tu, che non lavori dalla mattina alla Niente, sera e stai a quella che casa a faccio io non letto. sono cazzi che ti riguardano a te, ok? Nessuno ti romperà le palle, Ah, non hai rotto il nessuno. palo. C'è da 5 mesi Ma che mi stressate. no! Tu cazzo ti stresso, ma tu cazzo C'ho ti fa tutte rompere le il culo, chiamate, qua! tutto, tutto. Mamma mia, che cazzo mondo fuori, che hai fatto, non c'è mai scoppolando tu e Ma io non vado a fare la denuncia, perché pensi questo? sono le stima mie sorme, tu io ramma mie sorme cavallo giù non coccio lì crapa ca tu. Tu non sei normale di testa, Sebastiano. E comunque non mi chiamare più, se no Andare, se no sono che fatti fai, che tuoi. fai? E beh, che fai, che Ma fai? io non faccio niente, io non faccio Ma che niente. devi fare, che se ti fatta il tuo pannolino, che ne E fai? dopo me lo cambio. Forse te lo devo cambiare pure a Che fai? te? Dimmi. A me non è un cazzo, perché io non ho il pannolino. Ma tu cangia un giorno con quel pizzo, cazzo, non faccio cavolone. Ah, mamma mia, va bene. Ok. A mamma tua, perché ti giuro sulla vita di mio fratello che se tu metti un altro posto, te lo giuro, che vengo anche stasera, sto traso fino alla porta della casa, che la macchina, traso le inna, e tu mi pigi pure un caffè con tutta la macchina Va bene, sono ciao. messi in mamma Sara, perché tu hai scemo sta a Bonhab che fa scemo sta. Perché mi rompi il tipo giù, perché tu se tu scrivi un altro posto. Allora, io che faccio è guadiglia, non ho cazzo di voi, e non ho cazzo di Sofia, non ho cazzo di noi. Va buono? Sì. Ho Niente, capito, se ho poi. capito. Hai capito cosa? Ho capito tutto. Ma non voglio nemmeno Ma aspetta, aspetta, ma aspetta un minuto, Sara, ma tu sei di manca, di Caolonia. Ehi, tu e pacchi, chi vuoi? Ma tu se ti manchi Caolonia? Ma non capisco cosa vuoi. Cosa voglio? Cosa voglio? Prima che sono in estima, ma che andavano se ci sono un po' tarito, ma che tu. Babbo, ciao, ciao, dai.